i ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte a chi ci guarda da lassù. Scrivo più di Primo Levi, sono il primo, tutti levi. Prima squadra, mica lievi, la mia squadra un po' la temi. Non fotti con noi, Bolzaneto, UBR, Mad Boys. Spacco questo EP, viaggio come E.T., saggio come Bruce Lee, magro come Auschwitz. Cazzo ti esalti, fate solo rumore come Raudi. Se vado veloce tu non capisci, alza la voce che non ti capisco. La mia rima non la digerisci, quando capisci che in testa ti pisce. Non striscio, fumo molliccio, ti rompo il culo zio, non sono buliccio. Zero paragoni, non vali, non spiccio, sforniamo track ogni pomeriggio. Rappo con siga, so già che sarà una bomba. Come so una siga, so già che sarà una bomba. Senti fra l'aggiunta mentila, se c'è anche Felix e arriva Frankie Ash, smettila, senti la rima perfetta. Io c'ho così tanti concetti nei testi che se fossi donna il nome più adatto a me sarebbe Concetta. Porta rispetto alla mia banda, tu sono stanca. Mi urta come pallonate una serranda. La palla a me messa in banca, non puoi battere un Ferrari col Panda. Non mi fermi se io parto, quando rappi sei un parto. Tu ci scherzi, conta quanti denti perdi se ti parto. Uomo prendi fiato, ti senti il capo. Intanto che ci pensi ti ho già sterminato. Siamo tutti i giorni in studio, pazzi sconvolti come cani. Come cani. Come vuoi fare, come mi pare, sai che lo so, lo fare. So fare. È un po' di giorni che sto, che è un sto. Po' di giorni che sto. Che male. Do di matto un po'. Do di matto, do di matto un po'. Do di matto, di matto. Do di matto, di matto. Di matto, ma il fatto che quando son fatto sei fatto. Yeah, yeah, l'hai fatto e rifatto, ma è come se non hai mai fatto un fatto. E sono otto righe scritte con l'inchiostro e leader. Ha un rimorso e sopravvive in attesa della fine. Fino alla fine dei giorni si tiene i suoi soldi tenuti nascosti. Qui solo colossi, avevo cani con gli ossi. Tappiamo bocche usando bosti. Cammino quando fa buio, son tutto sconvolto, poco ma sicuro. T'assicuro che rappresento questo posto. Mad Studio, Mad Crew UBR, la tua crew si arrende, si dà il groove. Spacchiamo troppo come a tipe Tiger Woods. Senti non mento, un altro ne accendo. Ci penso poi parto al momento. Mi incarto, riparto e rimarco il mio intento. Intendo, non mi invento niente, zio non sto mentendo. Mi presento alle man, solito tram tram. Non è Mortal Kombat, non sei Liu Kang. Hai sbagliato, fra prendi fiato. Finisci spaccato come il culo di un trans. Poche chance, che vuoi che dica. Ce l'ha un impedito con la fotta guasta. Dopo l'ho sentito, mi sono accanito. Ho detto e basta, come De Sica. Capito, l'hai capita, capita. Capiti là, non ci siamo capiti. Poi scappi di qua, mille infamità. Ti infami i tuoi fra e noi restiamo allibiti. La faccio incredibile, disintegro ogni limite. Sono un irriducibile che studia l'impossibile. Posso accelerare, non mi becca l'autovelox. Schiaccio il pedale, non mi pongo un freno. Ueno, flow come al P-Tour. Viaggio con la mente fino a Timbuktu. Tra barre e incastri, sciolto come nel parkour. Spengo deficienti come spengo la bajour. Rap di moda come la siga elettronica. Si compra, si vende, si finge, si mente. Chi se ne intende trova la sito comica. Notorietà, no, non per noi fra. Noi siamo le star, nel senso di star qua. Più rime che strade un tom tom. Senti il tam tam, don't try this at home. Siamo tutti i giorni in studio, pazzi sconvolti come i cani. Come cani. Come vuoi fare, come mi pare. Sai che lo so, lo fare. So fare. È un po' di giorni che sto, che è un po' di giorni che sto. Che male. Do di matto un po'. Do di matto un po'. Do di matto un po'. Do di matto, di matto, di matto, di matto. Do di matto, ma il fatto che quando son fatto sei fatto. Yeah, yeah, l'hai fatto e rifatto, ma è come se non hai mai fatto un fatto.